Chi Rosetti vorrebbe il cuore soltanto per sé. Tutte le rose dei giorni più lieti, or che ogni cuore più triste non è. E si fan tenere le bocche, baciano, baciano e fremono tra i prati in fior. Cuore, so che vuoi goder, so che vuoi per te rose d'ogni colore. Giardino che fu devastato, poi che la guerra feroce vi entrò, tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò, e rosseggiarono corolle e petali, infranti al tepido bacio. So che vuoi per te rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio. Maggio e il ricordo cancelli d'un tempo tristo che alla fine passò. Tutti i colori più vaghi e più belli vegga fiorir chi sofferse d'amò, ma non ritornino le rosse immagini che ci ricordano. So che vuoi goder, so che vuoi per te rose d'ogni colore.